9 in punto, la versione di Oscar. Oh, eccoci qua, questo inizio di settimana, questo lunedì 23 gennaio, lo comincio sempre con la solita canzone dei Doors. C'è chi mi ha chiesto un giorno di spiegare tutte le parole per chi non sapesse l'inglese, lo farò prestissimo in questi giorni. Intanto sappiate che è una canzone non pessimistica, è una canzone che quando è stata scritta era una canzone un po' sullo smarrimento totale del fondamento della cultura occidentale. Erano anni in cui il Vietnam scardinava insieme all'economia molte certezze nei paesi occidentali, e io lo tengo come monito, perché fino a che non capiremo che cosa fare per tenere in piedi l'euro rischiamo qualche cosa di larghissimamente analogo. Il tema di oggi è, con i nostri ospiti e con le vostre telefonate, capire qual è la vostra reazione e la reazione della politica, dei partiti, a fronte dei tanti settori toccati con più o meno efficacia, a mio parere con molta meno efficacia di quanto sembri, ma con grande abilità comunicativa e di concentrazione delle forze da parte del governo nel suo provvedimento enfaticamente dichiarato Cresci Italia, le liberalizzazioni. Ci sono nuove misure per le semplificazioni che sono in arrivo oggi, lo avete sentito al giornale radio, ricomincia anche soprattutto il dibattito sul mercato del lavoro. Quindi è un governo che incalza molto, fa della comunicazione a tappeto. Avete visto Monti in televisione, a diverse trasmissioni, comunicare con grande forza l'ampiezza di provvedimenti che questo governo dei tecnici ha oramai l'intelligenza di rilasciare il testo finale alle 8 di sera, quando è praticamente impossibile ricostruire cosa ci sia davvero, e quindi i giornali, almeno il primo giorno, non possono che fare 10 pagine con i capitoli generali comunicati dalle misure. Poi si fa a vedere le misure e inevitabilmente chi è esperto di questo, noi lo abbiamo fatto con l'Istituto Bruno Leoni, di cui vi prego di visitare il sito, come sul blog che dirigo, www.chicago-blog.it, capitolo per capitolo abbiamo esaminato le misure delle liberalizzazioni. Ci sono cose molto buone, ma molte altre sembrano un po' meno, almeno a noi che siamo dei radicali estremisti della concorrenza, ma siamo abituati per mestiere a sia il centro-sinistra al governo, sia il centro-destra, siano i tecnici, a guardare al di là di quello che sono le parole della comunicazione dei politici. Comunque, fatto sta che questo fronte molto ampio e questa concentrazione di fuoco, questo grande compiacimento che c'è sulla stampa in generale nei confronti di questo governo, e per meritate ragioni, io stesso sono stato tra coloro che hanno sostenuto con grande energia che non c'era alternativa, consentono a questo governo di surfare come su una tavola, ma con grande forza, senza perdere l'onda, tanto che c'è da chiedersi se qualche eccesso di spregiudicatezza, tipo le previsioni dell'impatto economico di queste misure, ma ci torneremo tra poco, non iniziano a denotare qualche cosa che non va, di fronte alla quale la politica forse dovrebbe registrare un pochino i dadi. A me colpisce incredibilmente, vi dirò, assistere al fatto che le consultazioni per la riforma elettorale le faccia il Quirinale, con tanto di redazione di note con le quali informa i partiti dell'avanzamento della trattativa per la riforma di una norma che è il cuore della rappresentanza in ogni sistema democratico contrassegnato da una forma di governo parlamentare come la nostra, e cioè nella quale è il Parlamento che manda a casa i governi e ne fa di nuovi, al di là di quello che abbiamo attribuito agli elettori e che i partiti vogliono levare, cioè l'indicazione diretta alle urne di chi guida una coalizione di governo e che ha diritto a quel punto a governare. Ma siccome è rimasta parlamentare la Repubblica, e il Parlamento poi che è libero di sostenere nuovi governi, ebbene, non mi fa impressione sapere che il capo dello Stato, come se fosse titolare di un indirizzo politico a tenere le consultazioni con i partiti per la riforma elettorale, sono i partiti che gliel'hanno delegata, mi fanno osservare molti. Può essere una ragione, un'altra prova della loro totale assoluta debolezza. Fatto sta che siamo in una condizione nella quale il capo dello Stato è garante di un governo che ha contribuito potentemente, energicamente e secondo me meritoriamente a formare, visto il calo verticale di credibilità che avevamo internazionale, Però il suo coinvolgimento nell'agenda politica quotidiana diventa sempre più forte, commenta i provvedimenti prima che escono dal Consiglio dei Ministri, come è accaduto puntualmente ancora una volta venerdì, prega il Parlamento di limitarsi all'esame dell'indispensabile, come è accaduto puntualmente sia per la manovra finanziaria che per questo provvedimento, redige comunicati sulla riforma elettorale. Mi limito a interrogarmi di fronte a tutto questo. Ora, prima di presentarvi i nostri ospiti, come sempre facciamo qualche spunto che richiama il motivo per cui iniziamo e finiamo la trasmissione con i Doors, cioè qualche spunto sui maggiori quotidiani internazionali europei sulla crisi dell'euroarea. Devo dire che in questi due giorni l'attenzione di tutti è andata sulla trattativa che era aperta in Grecia tra il governo e l'IIF, che è la lobby degli investitori e degli intermediari finanziari che hanno i titoli del debito pubblico greco in tasca, soprattutto banche. Sapete che la trattativa si era interrotta una settimana fa di fronte al fatto che il 50% di taglio del valore di titoli del debito pubblico greco è considerato inadeguato dal governo greco, e io lo capisco, ne abbiamo già parlato. La trattativa è ripresa perché l'America ha fatto capire ai greci che in anno elettorale di Obama non si può non fare l'accordo in caso di svalutazione unilaterale da parte della Grecia del valore di titoli del debito pubblico. Andremo in una situazione argentina con uscita della Grecia dall'euro, pressoché sicuramente. La trattativa quindi è ripresa in questo fine settimana. Siamo arrivati vicini a un taglio tra il 65 e il 70%. Le cronache dei giornali Financial Times, che ha seguito la cosa, dice il 67-68%. La Grecia ha ancora chiesto altro per arrivare al 70%, che vi avevo detto fin dalla scorsa settimana essere il vero limite minimo al di sotto del quale la Grecia non accetterà. L'IIF ha sospeso di nuovo la trattativa, e Financial Times, a differenza delle Catamarine, il giornale greco, dice che in ogni caso deve esserci l'accordo, perché è stato comunicato con chiarezza al governo di Atene che non è perseguibile in un anno come questo una esplosione generale sistemica sia dell'euro che l'impatto che avrebbe in America in caso di uscita unilaterale. Vedremo. Catamarine, il giornale greco, dice anche che c'è una richiesta ulteriore di chiusura di altre 100 tra enti e società pubbliche, con 10.000 ulteriori licenziamenti oltre ai 240.000 che sono stati già patteggiati da un anno e mezzo a questa parte. Secondo tema sul quale sono andati molti giornali internazionali, da Le Monde a Frankfurter Allgemeine in questo fine settimana, è la richiesta del governo Monti, che pare ormai ufficiale alla Angela Merkel, di raddoppiare il volume di dotazione finanziaria dell'FSF e in previsione dell'SM dai 500 miliardi previsti fino ai 1.000 miliardi di euro, mentre Financial Times Deutschland accredita invece a Mario Draghi la richiesta di passare per l'FSF non da 500 a 1.000, ma da 500 a 750 miliardi. Ancora il Financial Times ha riportato questo fine settimana di un joint paper di Wolfgang Schäuble, il potente ministro delle finanze tedesco, e di François Borin, il suo collega francese, in merito all'annacquamento dei criteri patrimoniali per le banche di Basilea 3. E richiamo dalla stampa francese, ripresa con grande evidenza da Die Welt, il comizio di François Hollande, il candidato socialista che a tutti gli effetti sembra essere in vantaggio nella gara per l'Eliseo. Ha tenuto un comizio di fronte a 20.000 supporter socialisti domenica alle Bourget, all'aeroporto vicino a Parigi, e ha chiesto una modifica del trattato franco-tedesco per incardinare su nuovi binari la tenuta dell'euro e quello che bisognerà fare. Quindi Hollande si conferma come titolare di una visione molto muscolare e non più proclive, come quella di Sarkozy fino a due mesi fa, a dire sì alla Germania. Ecco, mi fermerei qui, tranne due altre osservazioncini breve sul sito del McKinsey Global Institute. Trovate una delle solite trovate di Paul Krugman, rispetto al quale, come è noto, io sono criticissimo. che dice che il settore pubblico va difeso negli Stati Uniti, va non difeso in Europa. A me fa molto ridere perché naturalmente Paul Krugman si arrampica sugli specchi ogni qualvolta deve, anche l'evidenza dei fatti, cioè l'esplosione dell'eccesso di debito pubblico e di Stato in Europa, contraddice la politica che lui sostiene in America. Lui sostiene naturalmente che in America sì che si può fare, perché in America sono buoni quelli che sono nel settore pubblico, non come quelli europei che sono cattivi. Una visione antropocentrica che mi fa ridere, come sempre quando da parte dei keynesiani si sostiene che lo Stato è buono, basta metterci quelli buoni sopra. Naturalmente quelli buoni sono quelli che danno le buone commesse agli economisti keynesiani, questo è di solito il criterio. Mi fermo qua per presentarvi i nostri ospiti. Abbiamo con noi due osservatori, nel senso che sono due giornalisti, il direttore di Panorama Giorgio Bulè, che saluto e ringrazio. Buongiorno Bulè. Buongiorno a tutti. E il vice direttore dell'Unità Rinaldo Gianola. Buongiorno Gianola. Rinaldo, posso iniziare da te? Che impressione hai avuto di tutto un po', insomma, diciamo, del complesso di questi provvedimenti, dell'abilità con cui apprendiamo che, insomma, con un copia e incolla che io ho trovato abbastanza discutibile. L'avesse fatto Berlusconi l'avremmo aggredito tutti. Nella prima pagina relazione della misura dei 92 articoli, quell'11%, 10,8% di crescita, 12% di crescita dei salari, sappiamo tutti noi che ci occupiamo della cosa, che è un copia e incolla da paper fatti anni fa della Banca d'Italia, che però illustravano queste conseguenze in un arco temporale molto lungo nel caso in cui ci fosse stata una cura alla Thatcher, cioè si fossero levate tutte le reti da tutti gli incumbent pubblici, Poste, Ferrovie, eccetera eccetera, si fosse abolito il valore legale del titolo di studio, si fossero fatte tutta una serie di cose che sono, diciamo, le misure di noi concorrenzialisti estreme, nessuna delle quali è in questo provvedimento. Però io adesso non voglio criticare, dico, questo governo è assolutamente da difendere, ma non è che ci stanno prendendo un po' troppo gusto? Che dice Rinaldo? Ma devo dire che, diciamo, la lenzuolata di Monti ha un effetto mediatico non di un governo tecnico ma di un governo altamente politico, perché sono stati bravissimi, no? L'hanno presentata come se stessero cambiando l'Italia, quindi con provvedimenti, numerosissimi provvedimenti, numerosi settori toccati, molti interventi. L'hanno presentato così, prima sommariamente, venerdì sera tardi, però dopo mezz'ora Monti era già in televisione dalla Gruber e poi domenica ci è tornato dall'Annunziata e ci hanno raccontato, secondo me, anche un po' di palle, se devo dirti la verità. Cioè, la mia prima sensazione è questa, che non credo affatto che questo provvedimento così ampio, vasto, organico, per carità, poi io tecnicamente devo dire che non sono abbastanza perplesso, ma questo è un altro discorso. Non penso che queste liberalizzazioni ci consentiranno, come dice Mario Monti, di uscire dalla recessione. Penso che non sia vero, cioè che è un fumo negli occhi degli italiani. Non è affatto vero che liberalizzando, non so, con un po' più di tassisti in giro, piuttosto che aumentando il numero dei notai o altro, noi possiamo uscire dalla recessione. Mi sembra che siano dei provvedimenti, per carità, in larga misura comprensibili, anche condivisibili, ma che non siano assolutamente sufficienti, né tantomeno siano garanti di un miglioramento totale della nostra economia. In più vedo che col passare del tempo questo governo assume dei connotati che personalmente non mi piacciono. Già non mi piaceva il governo tecnico di per sé stesso, devo dirti la verità. Però quando Monti invita il Parlamento a non modificare il contenuto del provvedimento, del decreto, così ampio, così articolato, che interessa, che coinvolge moltissimi interessi, moltissime categorie, beh, si va un po' più in là, secondo me. Cioè il Parlamento, pur malmesso, pur deficitario, ha tutto il diritto e la possibilità di intervenire e di modificare questo decreto, perché altrimenti qui il gioco è un po' come quello che dicevi prima di Napolitano, sta cambiando, cioè in quali condizioni democratiche ci troviamo, in quale situazione politica siamo, dobbiamo affidare per quanto tempo, diciamo, la gestione del paese, della politica, del governo, dell'economia a un governo di tecnici che non risponde più nemmeno, cioè risponde solo ed esclusivamente, diciamo, alle loro esigenze e ai loro programmi. Io la vedo un po' come una cosa un po' difficile, insomma, da sostenere nel lungo periodo. Trovo qualche preoccupazione anche in questo provvedimento sulle liberalizzazioni. Per esempio, ci sono due nodi che io non sono liberista come te, che però sottolineerei come elementi di discussione. La prima è la separazione tra Eni e Snam. La seconda è la separazione possibile possiamo parlarne così realisticamente, senza pregiudiziali ideologiche. Sì. Io devo dire che se il ministro Passera impone all'ENI, che è una società quotata in borsa, il cui 70% del capitale in mano ad azionisti stranieri, più o meno, a fondi di investimento, impone all'ENI di vendere entro 6 mesi la Snam, noi dobbiamo porci il problema che quello è un patrimonio importante del paese, anche dell'azionista Stato. E vendere partecipazioni in queste condizioni di mercato, in queste condizioni finanziarie, non può essere certamente un vantaggio per nessuno, tantomeno per gli azionisti di maggioranza e anche quelli di minoranza dell'ENI. La seconda questione riguarda le ferrovie. A me la deroga del contratto nazionale di lavoro per chi opera sulle ferrovie non piace. Soprattutto non mi piace perché è un settore dove invece dovrebbero essere maggiori le garanzie anche per gli operatori e soprattutto per i dipendenti di quel settore particolare. Io non vorrei che aprissimo una discussione che ci porta all'esempio inglese delle ferrovie, dove ne hanno combinate di tutti i colori. Quindi insomma, questi sono due settori, ad esempio, che sulla liberalizzazione io starei veramente molto molto cauto, ma diciamo la questione politica mi sembra prevalente in questo momento. Bene, anche perché sì, effettivamente la pensiamo su questo un po' diverso. A me quello che non mi è piaciuto è spacciare con i numeri dell'impatto di lungo periodo sull'economia misure molto diverse da quelle per le quali quell'impatto, comunque un po' generoso, era stato immaginato da Banca d'Italia e da Confindustria, che sono del tipo appunto di levare a tutti gli incumbent pubblici la gestione delle reti quando si offre servizi, proprio per aprirle meglio alla concorrenza. Quindi esattamente quello che non si è fatto, per esempio, con questa misura, né per le poste né per le ferrovie. Oggi apprendo poi dal Corriere della Sera, da un articolo di Massimo Mucchetti, che è molto ben informato, poiché il Corriere della Sera è il battistero di questo governo, che vi sarebbe un'altra maniera che prenderebbe per i fondelli esattamente chi come me chiede dal primo giorno un abbattimento dello stock del debito pubblico, non perseguito esattamente come avveniva sotto Tremonti ed esattamente come avveniva sotto Visco, attraverso avanzi primari sanguinosamente raggiunti per via fiscale che accrescono la recessione, bensì per massiccio abbattimento del portafoglio di attivo patrimoniale pubblico. E apprendo oggi dal Corriere della Sera, e credo di dover ritenere che Corriere della Sera sia ben informato, non sia una relazione giornalistica, che questo abbattimento si farebbe non certo per centinaia di miliardi di euro, che è possibile per esempio cominciando col mattone di Stato, ma con un giochetto finanziario al cui confronto, ripeto, la finanza creativa di Tremonti mi sembra niente, per il quale sarebbe Cassa Depositi e Prestiti, cioè sempre lo Stato, a ripagare al Tesoro società pubbliche, perché Cassa Depositi e Prestiti è debito pubblico ma non fa testo per Bruxelles, ma rimarrebbero pubbliche, con le quali noi diremmo che a quel punto abbattiamo il debito pubblico, naturalmente facendo restare totalmente pubblica la proprietà di quelle società. Ecco, in altri tempi il Corriere della Sera avrebbe tuonato esattamente come il giorno del giudizio, invocando l'Armageddon di fronte a cose di questo genere. Oggi esse vengono invece indicate come salutare e benefiche, non finanza creativa, che ottengono lo stesso effetto permanendo la stessa proprietà, ma invece le misure di efficace, salutare, salvifico abbattimento, inizio dell'abbattimento del debito pubblico italiano. Questo lo dico solo perché con la stessa durezza con cui ho criticato il governo precedente, io non intendo venir meno per la mia coerenza, ma anche perché è un criterio salutare farlo da punti di vista diverso, quello di Gianola è diverso dal mio, ma la questione è che quando si iniziano ad adottare due misure nel giudicare i fatti e i governi, e allora bisogna interrogarsi e grattarsi la testa, almeno questa è la mia opinione. Sentiamo quella del direttore di Panorama, Giorgio Mulè. Ma insomma, sulle liberalizzazioni io, come dire, come tutti, nel fine settimana ho spiluccato i commenti, ho visto le dotte tabelle, ma devo dire che alla fine mi rivedo molto in un articolo di ieri di Zingales sul Sole 24 Ore, uno di stamattina di Luca Ricolfi, che oltre a scrivere su Panorama è anche editorialista della Stampa, e cioè che gli effetti di queste liberalizzazioni non saranno a breve ma nel medio-lungo termine. Il stesso Ricolfi peraltro giudica questa lenzuolata incompleta, piena di limiti, di omissioni, insomma, diciamo, per esemplificare, questa delle liberalizzazioni non è il Big Bang che tutti si aspettavano, cioè non è quello che è stato venduto soprattutto da venerdì sera ancora stamattina, è secondo me una flashbang, cioè una di quelle bombe che vengono buttate all'interno di una casa che sul momento fanno un gran rumore, confondono, disorientano, hanno un effetto che è dirompente, poi finito l'effetto della flashbang, quando si ritorna con i piedi per terra, si analizza nel dettaglio le misure che sono contenute, beh, allora devo dire che è largamente insufficiente se questo doveva essere il decreto che per far crescere l'Italia, perché le misure sono di là da venire e quindi con un fattore temporale che in un momento come quello che viviamo politicamente di assoluta indeterminatezza, citavi prima, secondo me assolutamente a proposito, il grande attivismo del Quirinale che oramai ha allargato, diciamo, le sue competenze al di là di quello che stabilisce il rigido dettato costituzionale al quale ci si appella molte volte e il quale si finge di dimenticare in altre occasioni come quella della legge elettorale. Gli effetti dello scorporo tra l'ENI e la Snam Rete Gas sono di là da venire, sono demandati ad alcuni mesi, in questi mesi sappiamo perfettamente possono succedere e succederanno tante cose. Gli altri provvedimenti sono addirittura a 2 anni di distanza dal decreto, non so quella ipotesi di 1,5/2 punti di PIL all'anno, cioè 30 miliardi di euro, come effettivamente possono essere raggiunti se non con una operazione non di finanza creativa ma di, se vogliamo, intelligente collazione di studi del passato che in realtà non porteranno a nulla se non a qualche, come dire, liberalizzazione. Anche la tanto, come dire, contrabbandata riforma per i giovani, chi ha sotto i 35 anni potrà costituire una società con un euro, non risolve nessun problema, né mi pare una misura dello sviluppo, perché a questi giovani sotto i 35 anni qualcuno dovrà dargli il credito. Ci stiamo dicendo da mesi che il credito è bloccato ed è bloccato per chi ha già imprese avviate e ha imprese che stanno sul mercato, stanno bene sul mercato. Figuriamoci, come abbiamo dimostrato con numerosi articoli, se un ragazzo a 30 anni si presenta con una banca e dice ho però una società, quale credito possa ricevere? Allora mi sembra che pur avendo l'effetto dello scossone dell'albero o della flashbang, in realtà i problemi che rimangono irrisolti sono tanti e non vanno assolutamente nella direzione di una risoluzione. Peraltro vediamo che i metodi di lotta, e lo vediamo stamattina con l'Italia che è vergognosamente bloccata da nord a sud, da 60 e più presidi dei TIR che in maniera, come dire, selvaggia, pur avendo magari delle sacrosante rivendicazioni, adottano un metodo di lotta antico e sarà interessante vedere rispetto a questo metodo di lotta il governo dell'equità, del rigore e dello sviluppo come si comporterà, se sceglierà una strada radicale o se sopporterà che l'Italia è paralizzata, ferma in questo momento per una protesta dei TIR. Ora, questo non significa, lo dico per la veemente reazione che è in corso agli sms al 349-238-6666, la veemente reazione di molti ascoltatori che dicono che cos'è, ti sei svegliato storto, hai cambiato idea, sei tornato sostenitore di Berlusconi, sei nostalgico del boia di Arcore, leggo in serie alcuni degli sms, ma a come, voi di destra non dovreste essere felici, avete finalmente il dittatore che svia il Parlamento, guardate, niente di tutto questo. Io mi sono limitato a essere duro nei mesi del governo precedente perché secondo me era in caduta libera e faceva male per l'Italia quando l'Italia era detonatore. Ora sono addetto a un criterio, per così dire, di attenta disanima che distingue ciò che è da ciò che viene venduto anche quando non è. E questo tasso all'interno di questo governo tecnico mi sembra molto più elevato di quanto non si dichiari, il che non significa che vi levo il diritto, che potete coltivare tranquillamente, di continuare a essere fan sfegatati di questa formula rispetto a qualunque altra o di quelle del passato rispetto a questa. Io non faccio il fan di mestiere, tento di capire quanto la politica ci mette sul tavolo, e il mio mestiere è quello, dal mio punto di vista, che dichiaro obiettivamente che non è la verità ed è minoritario, antistatalista e liberista, di capire quanto siamo più vicini o più lontani e poi quanto si può valutare di queste misure. Queste misure sono un importante investimento politico, questo non c'è dubbio, perché è ovvio che si rimette la concorrenza al centro dell'agenda nazionale. Questo non era avvenuto con i governi di centrodestra, questo è poco ma è sicuro, è innegabile che sia così. Detto questo, voi capite che dire l'11% di crescita del paese mentre stiamo andando in una recessione, e abbiamo avuto l'ennesimo ritocco da parte del fondo che dice se va bene 2,5%, ma potremmo andare a meno 3 quest'anno, ecco, in effetti questo mi sembra un appello minimo all'intelligenza, no? Alla ragionevolezza. Quindi state tranquilli, qui non stiamo dicendo buttiamo via il governo, stiamo tentando di capire per quale ragione tutta questa enfasi e questi metodi di accrescimento degli impatti previsti si coniughino con una strategia di copertura mediatica di cui si vedono gli effetti, per carità, e con un attivismo al Quirinale che è fortissimo, a mio giudizio, ben al di là dei limiti che la Costituzione deve prevedere per tutti i governi da parte del Capo dello Stato, perché stanno nelle sue prerogative costituzionali. Tra l'altro, a conferma del fatto che questo governo comunque ottiene un effetto, ne parla nella sua prima parte l'articolo di oggi Luca Ricolfi, nell'articolo sulla stampa che citava l'amico Giorgio Mulè, direttore di Panorama, in effetti lo spread resta più basso considerevolmente, siamo oggi intorno ai 434-436 punti il decennale. Vedremo nelle prossime settimane se, come credo, si confermerà oltretutto l'ulteriore abbassamento soprattutto dei rendimenti dei titoli a bassa duration rispetto a quelli invece che durano più anni, come i settennali decennali, e che bruciano più capitale da parte delle banche italiane, e quindi per questo il rendimento lì resta più alto rispetto invece a quanto stiamo guadagnando rispetto ai record, sempre, cioè quasi il 50%, scusatemi, meno rispetto ai massimi di novembre, ai record, e per i titoli di durata più breve. Quindi questa, per esempio, è una conferma che non si può dimenticare del fatto che questo governo è sicuramente impegnato ed è contraddistinto da un'interlocuzione europea che premia l'impegno dopo la manovra di finanza pubblica. Questo non significa però che non si possa restare liberi di criticare. È ovvio che per noi liberisti, ripeto, andate a vedere sul Bruno Leoni e su Chicago Blog i nostri giudizi punto per punto del decreto, qui non voglio annoiare nessuno, ci colpisca come per esempio sulle farmacie e i notai l'impostazione non sia quella di aprire la concorrenza, tipo consentire più prodotti venduti al di fuori delle farmacie o levare la privativa ai notai di alcuni tipi di atti consentendola ad altre professioni come gli avvocati e i commercialisti, ma sia quella semplicemente dell'aumento della pianificazione di Stato, cioè del numero di notai e farmacie. È questa la maniera di fare concorrenza? Catricalà è convinto di sì, noi siamo convinti di no. Lo Stato non sa meglio del mercato chi deve fare le cose. Perché in alcuni settori si interviene all'interno delle catene di integrazione verticale delle aziende? Lo si fa con l'agente monomandatario che deve diventare plurimandatario per le assicurazioni, che avrà dei costi, che pagherà il cliente, come è evidente. Lo si fa nell'integrazione verticale del settore petrolifero per le liberalizzazioni dei soli esercenti gestori della licenza di stazione di carburante, solo per quelli c'è una liberalizzazione fino al 20% dell'approvvigionamento rispetto a quella di cui hanno il logo. Non lo si fa ovviamente per le stazioni delle compagnie petrolifere, e questa cosa rientra nei segmenti verticali di organizzazione delle compagnie petrolifere come delle cose assicurative, e poi un analogo criterio non lo si fa invece per altri settori dove al contrario si adotta l'idea della pianificazione di Stato. Poi valeva la pena sui taxi, lo dico con grande sincerità, fare tutto questo caos con tutta questa reazione per demandare poi a un'authority costituenda entro mesi e sentiti i sindaci i criteri di intervento, visto che comunque non ci saranno le licenze, la pluralità di licenza in testa a un esercente, valeva la pena? Ma io francamente non credo. Detto tutto questo, queste sono le nostre legittime opinioni di mercatisti, non vorrei che voi pensaste che siamo diventati tutti improvvisamente matti, c'è gente che ci ha studiato per anni anni e di qui a solo ridurci a battere tutte le manine, beh, non mi piace con il governo di nessun colore. Iniziamo a capire come la pensano alcuni di voi. Ugo da Milano, come la pensa Ugo? Buongiorno Giannino, io frequento Bruxelles per motivi di lavoro. Volevo dire che i commenti che ho sentito da Gianpaola e da altri per me sono ingenerosi, perché quando si dice riforme strutturali vuol dire incidere sia sui soldi che lo Stato spende sia su come prendere decisioni. Io penso che una cosa molto importante che Monti ha fatto e sta facendo e continuerà è togliere alla competenza politico-amministrativa, come qualcuno l'ha detto nei giornali, certe decisioni e portarle o al Ministero del Tesoro o ancora di più all'antitrust centrale. Perché l'inquinamento vero è che certe cose si ritiene possano essere decise a livello politico, mentre invece io ritengo che debbano starne fuori, e lo ritiene anche l'articolo 101 e 102 del Trattato europeo. Quindi il messaggio che volevo dare è che non bisogna pensare che la politica possa a livello di decisioni del Parlamento fare e disfare come vuole. La politica per me deve, come si sta facendo, definire gli ambiti, e certi ambiti ritengo che non debbano più essere di discrezionalità, come se mi è consentito quella di Alemanno sui tassisti a Roma, ma di regole del gioco trattate probabilmente al di fuori delle decisioni del Parlamento, ma ripeto, come dice il Trattato europeo, secondo le regole della concorrenza. Grazie. Io sono d'accordo con lei, tranne il fatto che, come ovvio, l'offerta dei taxi, delle vetture pubbliche è diversa da città a città, e quindi il criterio può essere comune, ma non capisco come, al di là dei tanti anni passati a trattare di federalismo e volevamo abbassare, secondo me giustamente, la decisionalità più vicina ai problemi, e adesso invece riportiamo tutto apicalmente. Sono molto curioso di vedere come avverrà la dialettica tra l'autorità costituenda e i sindaci, perché come ovvio i sindaci esporranno problemi molto diversi in ambiti urbani molto diversi, e vedremo se lei ha ragione. Sentiamo Jenny che ci chiama da Ancona. Prego Jenny. Buongiorno, io l'unica cosa che considero è che nessuno mette sul piatto un'unica legge che secondo me sarebbe la più risolutiva di tutte, insieme a tutto il resto, alle liberalizzazioni. Limitare il costo dello Stato, ma non per quanto riguarda gli stipendi e le pensioni, ma per quanto riguarda banalmente anche diciamo un semplice chilometro di asfalto. Se in Italia un chilometro d'asfalto costa 15-20 volte più che nel resto d'Europa, basterebbe solo dire che il chilometro di asfalto deve essere parametrato non dico alle medie, ma alle massime europee, e noi risparmieremmo una marea di soldi in tutti gli ambiti. Non è lo stipendio, non Jenny, è, sono sicuro che se ci fosse Massimo Buchetti qui con me le spiegherebbe che costa di più perché la colpa è dei privati e non dello Stato. Ovviamente io sono assolutamente convinto del contrario. Questa roba, se ci prendono per il naso con le finte privatizzazioni, e mi trovo con il Corriere della Sera che inneggia esattamente come ieri Giavazzi, e l'incolpevole Alesina che confirma gli articoli di Giavazzi, ha detto che non bisogna discutere perché l'unica soluzione al mercato del lavoro è il contratto unico, e il contratto unico per tutti solo a tempo indeterminato, allora io su questo inizio veramente ad arrabbiarmi, perché evidentemente è in atto a quel punto un'OPA del Corriere della Sera, non sulla politica, su questo si difende la politica, ma sul pensiero liberale, e a quel punto i liberali devono insorgere. Ti faccio una domanda, Gianola, non è che in realtà sei stato un po' troppo ingeneroso? Perché poi, se andiamo a vedere la risposta alla domanda perché non ha fatto per Ferrovie quello che ha fatto per il gas con Snam, Monti ha risposto: perché non voglio dare una mano ai concorrenti stranieri di Ferrovie. Se dovesse avvenire sulla manovra di finta privatizzazione Cassa Depositi e Prestiti, come la descrive oggi il Corriere della Sera, tutto sommato è un argomento che sposa quello che dicevi tu: in tempi di crisi come si fa a cedere alla parte pubblica, inventiamoci qualcosa per non farlo. Terza cosa, sul mercato del lavoro, se finisce in realtà come apprendiamo da un altro quotidiano che da oggi, secondo me, è una dritta fondata, La Stampa, che oggi ci dice che in realtà il ministro Fornero non ci pensa nemmeno a levare l'articolo 18 con la tutela giudiziale, al massimo da uno sprint ai tempi dei processi per il reintegro, ma non intende affatto far cadere l'articolo 18 e quindi intende mantenere la tutela che c'è oggi e innestarvi sopra l'apprendistato di 3 anni della proposta Nerozzi. Se dovessimo guardare nel merito, queste sono tutte cose che sono molto più vicine a quello che poi chiede la sinistra di quello che non sembri, o no, Giannone? Ma vediamo i fatti, insomma, perché per quanto riguarda l'ipotesi di trasferire quote di capitale delle aziende pubbliche alla Cassa Depositi e Prestiti, ricorderai che è un'operazione già fatta in passato, tant'è che oggi la Cassa Depositi è già azionista sia dell'Enel che dell'Eni, ecco, quindi già in precedenti manovre finanziarie viene fatta questa scelta, quindi non è una novità. Probabilmente sarebbe un'accentuazione, perché se tu sposti tutte le quote di capitale di Finmeccanica, Eni, Enel, Poste, bella i soldi. Sono un sacco di soldi, vabbè, anche se oggi valgono certamente meno rispetto a prima, ma sono un sacco di soldi, vabbè. No, io direi che sull'articolo 18, diciamo, la cosiddetta riforma del mercato del lavoro, di cui oggi si inizierà a discutere, io penso questo, che l'articolo 18 non sarà toccato. E penso anche che verrà tutelato lo statuto dei lavoratori, diciamo, complessivamente nella sua integrità e nella sua filosofia, perché ho l'impressione che questo governo non voglia fare a botte con i sindacati. Dopo ci hanno provato, secondo me, all'inizio. C'è stata l'intervista della Fornero che parlava di cose che forse non erano propriamente sul tavolo in quel momento, non erano mature da affrontare. Hanno fatto delle prove, ma penso che oggi sull'articolo 18 e con una ritrovata unità sindacale che non si vedeva da molto tempo, almeno sulla questione del mercato del lavoro, ho l'impressione che il governo non faccia passi o strappi in avanti che siano difficili da sostenere anche in Parlamento e soprattutto nel Paese. Teniamo presente che insomma, il governo sul fronte sociale ha già fatto un'operazione pesantissima, che è quella della riforma delle pensioni. Di fronte alla riforma delle pensioni, che secondo me ha un grado di ingiustizia verso certe categorie molto profondo, molto forte. Aggiungerci anche questo, Luigi sarebbe rischioso. Aspetta, affretto solo perché siamo in ritardo e mi scuso con i colleghi, l'informazione sulla circolazione stradale. L'ipnosi musicale che serve a evocare la crisi dell'euro che è con noi e la crisi dei paesi avanzati che purtroppo è la dominante di questi ultimi anni, a segnare l'ultima parte della nostra trasmissione. La domanda che faccio a Mulè è una domanda simile in realtà a quella che ho fatto a Giannola, perché io non so se attribuire alla prima intervista Repubblica del ministro Fornero quando disse l'articolo 18 l'intenzionalità o una finta ingenuità, nel senso che io credo che il ministro Fornero non abbia mai voluto toccare la tutela dell'articolo 18, così ha tirato su la saracinesca delle reazioni, e bene o male credo che questa sia la sua intenzione, praticare solo il contratto unico, quindi la lotta alla precarietà levando i contratti a tempo determinato, cosa che è sacrosanta, a patto che però si capisca che la flessibilità, se a quel punto non c'è in entrata e non c'è in uscita, in tempo di recessione avremo meno occupati, non di più. Io questa è la previsione che faccio, e sono molto curioso di vedere Confindustria come farà a dire di sì a questa bella impostazione. Ieri Monti ha fatto la stessa cosa, è andato in televisione, ha detto bisogna, non è un tabù l'articolo 18, poi però leggiamo che l'impostazione della manovra, se ha ragione La Stampa di oggi, San Fornero è di Torino e chi scrive quegli articoli conosce lei e il marito da anni, probabilmente saremmo anche qui in presenza di una bella offensiva mediatica per fare cose un po' diverse da quello che si dice. Che pensa Mule? Che sia il ragionamento, come dire, corretto e, come dire, rispecchi quello che è accaduto, con un atteggiamento del ministro Fornero che, diciamo, se nelle sue interviste o comunque nei suoi atti esterni dice una cosa, poi in realtà ne sta precostituendo, a mio giudizio, un'altra. Sposo totalmente l'idea di aspettare al guado Confindustria, perché vediamo se davvero lo sviluppo di questo paese passa per le forme che i sindacati ancora oggi ribadiscono, sia Bonanni che la Camusso, e più riprese sull'intangibilità, o se invece finalmente in questo caso possiamo davvero davvero da dare vita a un nuovo corso. Io penso soprattutto che sia per le liberalizzazioni che per l'articolo 18 sia fondamentale essere molto pragmatici. Allora mi richiamo anche a un altro punto delle liberalizzazioni che è strettamente connesso anche con lo sviluppo e quindi anche con le tematiche relative al lavoro, e cioè la creazione dei famosi tribunali delle imprese. I tribunali delle imprese sono quelli che servono, diciamo, al 90% dovrebbero servire alle piccole imprese, cioè a quelle aziende che preferiscono, che devono andare davanti a un giudice piuttosto che, rispetto alle grandi imprese, possono firmare contratti con partners che conoscono e garantiscono affidabilità. Le piccole e medie imprese invece non lo possono fare. C'è un problema drammatico, tragico, che non si riconosce e che sul quale si sorvola, che è quello dell'arretrato del contenzioso civile delle piccole e medie imprese, soprattutto al sud. In questo basterebbe fare a volo d'angelo quello che succede da Roma in giù nei tribunali, nelle sezioni civili, per avere drammaticamente percezione del problema. L'istituzione del Tribunale delle Imprese, è bene che si sappia, è una cosa che è scritta sull'acqua, in quanto già non io ma magistrati di tutte le ispirazioni dicono: ma guardate che noi abbiamo dei vuoti di organico pazzeschi, abbiamo dei vuoti amministrativi che fanno spavento, se vi illudete di trasformare le 12, perché di questo parliamo, 12 sezioni esistenti in Italia legate al contenzioso delle imprese in super tribunali, guardate che non lo riusciremo a fare mai. E questo si collega anche al discorso della tempistica di queste liberalizzazioni, che se riusciranno a dispiegare gli effetti, guardate che non saranno prima di 2-3 anni, e non è un limite che io pessimisticamente o perché vicino a un'idea rispetto a un'altra dico, è l'idea dei tecnici, cioè di commentatori. Lo stesso Ricolfi ancora oggi sulla stampa indica 3 anni il periodo in cui si arriverà, è lo stesso per il lavoro. Allora, conclusione: Rinaldo Gianola, vice direttore dell'Unità, Giorgio Mura, direttore di Panorama, due punti di vista diversi, un'analisi di merito. Guardate, sbagliate coloro che sono in ascolto che mi dicono che è questione politica. Non è questione politica, è questione di merito. Questo continueremo a fare, appuntamento a domani.